Vola, vola su Dio, vola diverso, vola volando, vola via. Thank you. io vedo il mondo a testa in giù e mi confondo. Se potessi volare via, via da qui, da chi non crede ai sogni, via così, senza rimpianti, via da un mondo che non so cambiare. Oh, quante cose vedo che il tempo ha divorato, i pianti degli amanti, le ore sprecate pregando in vano. Fai quassù tutto solo, fra le cose abbandonate, sulla luna. Sono pietre sputate dal mare, lasciate qui. Questo filo poi.